giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono 4 gli indagati per la tragedia del Natisone in cui persero la vita 3 giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Le indagini si concentrano sulle tempistiche dei soccorsi e in particolare sull'arrivo dell'elicottero dal Veneto. Le strategie per il coordinamento di porti, interporti, reti e trasporti a livello regionale avranno presto una cabina di regia. Oggi la prima riunione operativa all'assessorato delle infrastrutture. Per gestire le grandi superfici dei supermercati e ipermercati, le catene della grande distribuzione guardano agli ITS. In regione nasce il primo corso post-diploma per un grande marchio europeo. Il CRO di Aviano celebra i 40 anni di ricerca e cura delle malattie oncologiche. Intanto negli ambienti clinici si lavora sulla prevenzione dalla resistenza agli antibiotici anche con campagne informative sull'uso di questi importanti farmaci. Le terme di Aquileia avevano statue colossali che celebravano imperatori e dignitari e la loro costruzione è iniziata nel 300 d.C. Sono le scoperte dell'ultima campagna di scavi condotte dagli archeologi dell'Università di Udine assieme alla soprintendenza. È stata presentata l'edizione 2025 della Corsa della Bora. Buongiorno da Andrei Marušić e Nada Ciocchi. In apertura le indagini sulla tragedia in cui persero la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del Natisone a fine maggio. La procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati 4 nomi. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Il servizio di apertura è di Lillo Montalto Monella e Antonio Di Bartolomeo. Sono 4 gli indagati per la morte dei 3 ragazzi investiti dalle acque del fiume Natisone in piena lo scorso 31 maggio sotto il ponte romano di Premariacco. Si tratta di un operatore della SORES di Palmanova, la sala operativa regionale per le emergenze sanitarie, e di 3 vigili del fuoco, un capoturno e 2 addetti alla centrale operativa di Udine. Il reato ipotizzato è di omicidio colposo. L'avviso di garanzia è stato inviato loro la settimana scorsa. Hanno ricevuto un invito a comparire nei prossimi giorni in procura per un interrogatorio a cui gli indagati hanno il diritto di non sottoporsi. Solitamente l'atto precede la chiusura dell'inchiesta. In questa fase non sono note nemmeno ai difensori le ragioni dell'accusa. Aspettiamo di vedere il fascicolo. Ragionevolmente non ci presenteremo all'interrogatorio, dice Stefano Bonacore, il legale di 2 dei 3 vigili del fuoco iscritti nel registro delle notizie di reato. Anche l'avvocato dell'operatore della SORES, Maurizio Miculan, ritiene che il suo assistito non andrà in procura in questo momento, prima che si conoscano gli atti dell'indagine portata avanti dai carabinieri, guidati dalla sostituta procuratrice Letizia Puppa. Dalla procura per ora le bocche rimangono cucite, come impone la legge. Tra le questioni denunciate dall'avvocato di parte civile Gaetano Laghi c'è la mancata attivazione dell'elicottero della SORES, dotato di un verricello e di un tecnico di soccorso alpino. Il velivolo è rimasto fermo a Campo Formido per oltre mezz'ora, a una ventina di chilometri di distanza, mentre veniva fatto partire quello dei vigili del fuoco da Venezia, lontana 110 km in linea d'aria. Sono stati rispettati correttamente i protocolli? Questa è una delle domande chiave della vicenda. Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar avevano tra i 20 e i 25 anni. I corpi delle 2 ragazze furono trovati 2 giorni dopo la tragedia, mentre per Molnar i familiari dovettero attendere oltre 3 settimane di approfondite ricerche coordinate dai vigili del fuoco. Si stanno celebrando con un importante convegno i 40 anni del CRO di Aviano. Il CRO di Aviano compie 40 anni e li festeggia con un convegno che celebra la storia dell'istituto riconosciuto come IRCCS dal 1991, ma che soprattutto guarda al futuro. Tra le sfide, l'umanizzazione delle cure e la presa in carico multidisciplinare e integrata del paziente. La direttrice generale Francesca Tosolini. Questo primo traguardo sono i primi 40 anni. Però quello che ci aspetta in futuro sono futuri, anni futuri in cui dovremo sempre impegnarci di più per la ricerca, una ricerca che si fa sempre più attenta alle esigenze del paziente, ma anche a portare a possibilità di cura che fino a qualche anno fa erano inaspettate. Stiamo parlando delle cure personalizzate, quindi una singola terapia per quel singolo paziente, stiamo parlando di intelligenza artificiale, stiamo parlando di terapie geniche, che però non ci devono far dimenticare anche che questo è uno dei pezzi della cura, che necessita di essere integrato in tutto quello che è una presa in carico complessiva. Il 2024 coincide anche con il trentennale dell'installazione della radioterapia ad Aviano e con il recente avvio del cantiere per la protonterapia. Maurizio Mascarin, direttore oncologia radioterapica del CRO. Sarà un progetto che porterà ricerca, giovani, nuove menti, nuove idee per i prossimi 20 anni di sicuro. Soprattutto permetterà di dare maggiore qualità di cura ai nostri pazienti con una medicina di precisione, una medicina più personalizzata, che garantirà soprattutto a questi pazienti di avere un futuro dopo le cure migliore. Tra gli interventi anche le testimonianze di ex pazienti come Federica, 23 anni. È stato chiaramente un momento un po' impegnativo per me, che però grazie al supporto psicologico, al supporto scolastico che mi è stato dato qua in Area Giovani, mi ha aiutato a superarlo e anche a un po' decidere quello che sarebbe un po' il mio futuro, quindi di lavorare con i pazienti che stanno facendo una terapia e di aiutare loro tramite i benefici dell'esercizio fisico, e infatti sto facendo anche la tesi qua. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi 19 persone su 100.000 muoiono per infezioni da batterio resistente in Italia più che nel resto d'Europa. Se le cose non cambieranno, tra 30 anni la resistenza agli antibiotici farà milioni di vittime. Va ridotto l'uso degli antibiotici anche negli allevamenti, sostengono gli infettivologi. Nel servizio sentiremo l'infettivologo Massimo Crapis. Un animale che assume antibiotici è un animale che diciamo va a modificare il proprio corredo batterico, quello che chiamiamo in gergo microbioma, potendo selezionare batteri multiresistenti. Questo è un problema perché lo si può ritrovare nei suoi prodotti, quindi per esempio nella carne ovviamente, soprattutto nella carne poco cotta, la tartara per esempio, per fare un esempio, diciamo altre modalità di consumo di carne non particolarmente cotta, dove invece i batteri ovviamente muoiono, il rischio è di introitare batteri multiresistenti. Però anche l'ambiente, per cui chiaramente gli animali che vengono allevati producono deiezioni, queste deiezioni poi vengono immesse nella maggior parte dei casi nell'ambiente, quindi per esempio servono per concimare. È chiaro che però questo poi vuol dire andare a fertilizzare con batteri multiresistenti campi di sostanze vegetali che noi possiamo poi andare a mangiare, e quando mangiamo l'insalata, per esempio, se questa è stata a contatto con deiezioni di animali, se non la laviamo benissimo, è chiaro che qualche batterio noi continuiamo a ingurgitarlo, e in quel momento possiamo ingurgitare batteri multiresistenti. Soprattutto in Italia c'è una legislazione veramente molto molto serrata in medicina veterinaria, per cui alcuni antibiotici non si possono utilizzare, alcuni possono essere utilizzati solo in alcuni casi molto particolari che devono essere ben documentati dal veterinario. Quindi in realtà dal punto di vista di medicina veterinaria si è agito in maniera molto più restrittiva di quello che noi possiamo fare a livello di medicina umana. Questo perché in realtà in medicina umana ovviamente quello che è importante, che è fondamentale rispettare, e ovviamente lo dico anche da medico, è la scienza e la coscienza del singolo medico. Il servizio era di Alessandra Zigaina. La logistica ora è una delle chiavi di successo delle aziende e dello spostamento delle merci per coordinare le strategie regionali in materia di portualità, interportualità dei trasporti e delle reti infrastrutturali. È stata istituita la cabina di regia dei trasporti e della logistica. Stamane la prima riunione a Trieste nella sede dell'assessorato alle infrastrutture. Il primo punto all'ordine del giorno della cabina di regia dei trasporti e della logistica neoistituita dalla Regione con autorità di sistema portuale, interporti, aeroporto, operatori dei trasporti e della logistica entra subito nel vivo di uno dei fenomeni emergenti in tutto il nord Italia. La diffusione dei centri logistici privati. Sono in aumento anche in Friuli Venezia Giulia le domande da parte di fondi immobiliari italiani e stranieri che vorrebbero realizzarli su vaste superfici in prossimità degli snodi autostradali e assi viari. Nel darne notizia l'assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Mirante, richiama la necessità di regolamentarne la presenza sul territorio, seguendo l'esempio pilota della Lombardia, che da poco ha normato i criteri di individuazione degli ambiti idonei a ospitare gli insediamenti logistici con superficie operativa superiore ai 3 ettari. L'obiettivo è quello di coniugare iniziativa economica e tutela del territorio, evitando l'eccessivo consumo di suolo e soprattutto che possano diventare una criticità per il sistema viario, favorendo quelli raccordati alla ferrovia. Il parere parere che uscirà dalla cabina di regia come da regolamento non sarà vincolante, ma getterà le basi della prossima legge. Sul tavolo anche le nuove norme del codice della strada, con la richiesta giunta dalle associazioni degli autotrasportatori di poter approfondire con un esperto. Infine il controverso capitolo dell'annunciata chiusura per lavori per circa 18 mesi dell'autostrada slovena H4. Il pericolo concreto, ribadisce Amirante, sono le ricadute negative sia per l'autoporto di Gorizia, che si troverebbe senza passaggio di mezzi pesanti, che per quello di Fernetti a Trieste, che ne sarebbe invece congestionato, con ripercussioni insostenibili soprattutto coi flussi turistici estivi. Dando voce alle preoccupazioni delle categorie, l'assessore Amirante ha annunciato di aver chiesto al prefetto di Trieste di attivarsi per un incontro con le istituzioni slovene prima dell'avvio dei lavori. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La gestione delle grandi superfici della distribuzione organizzata, cioè dei super e ipermarket, è una scienza precisa che può portare margini di guadagno importanti al negozio. Una catena della grande distribuzione di livello europeo ha avviato in regione un corso post-diploma per la funzione di manager di supermercati, con la promessa di assunzione per i 25 migliori studenti. Lavorare nella grande distribuzione, essere stipendiati per questo e nel contempo studiare in aula per essere pronti a stretto giro a diventare vice responsabili di un punto vendita. È il nuovo corso post-diploma ITS di alta specializzazione proposto da una nota multinazionale tedesca nel campo della grande distribuzione, una formula duale che garantisce l'occupazione non solo a fine percorso ma durante. Il biennio, iniziato ad ottobre, è stato presentato nell'aula di rappresentanza del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, partner dell'iniziativa. Il nostro obiettivo, ha detto l'assessore al lavoro Alessia Rosolenne, è costruire sempre più filiere formative tecnico-professionali dal futuro lavorativo certo. 300 i candidati, 25 i ragazzi selezionati, provengono da tutto il nord-est. Le lezioni si tengono a Trieste presso l'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico, specializzata in ambito marittimo e logistico e che ora ha scelto di aprirsi ai nuovi servizi per l'impresa. Bruno Sveck, direttore dell'ITS, dice: «Credo fermamente in questo percorso duale in cui le aziende investono in prima persona, offrendo il lavoro non solo al termine degli studi, ma anche durante». Trieste, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di atmosfera natalizia che si crea anche con le piste da ghiaccio. In piazza Primo Maggio a Udine apre questo pomeriggio la superficie ghiacciata di 1200 metri quadri dell'Udine Ice Park, una tra le più grandi d'Italia, che l'anno scorso ha attratto decine di migliaia di pattinatori. Rimarrà aperta fino al 12 gennaio e da sabato, accanto alla pista di ghiaccio, sarà allestito anche un mercatino di Natale e la Christmas Arena, uno spazio dove ci sarà un musical a tema natalizio dedicato ai più piccoli. L'atmosfera natalizia con l'accensione di luminari e mercatini e concerti si fa sentire anche nei comuni minori. Davanti al municipio di Duina Orisina alle 17 verrà acceso l'albero di Natale e sarà presentato il ricco calendario di eventi che animerà le varie associazioni attive nel comune carsico fino al 13 gennaio. Con un omaggio artistico alla sensibilità femminile, la cittadina di Turiaco ha aperto il suo percorso verso il Natale inaugurando la mostra Volti di Donna nella sala civica Nilde Iotti. La curatrice della mostra, Daniela Magrin, ha illustrato la scelta di esporre le opere di tre artisti del territorio bisiacco, Martina Michelin, Tiziana Millo e Cristiano Vernole, che offrono nei loro dipinti un'interpretazione delle inquietudini che attraversano enigmaticamente i volti femminili. La Proloco ed il Circolo Eugenio Brandel, nell'organizzazione dell'esposizione, hanno invitato ciascun artista a donare una singola opera e quindi sono tre i dipinti che vengono messi all'asta a favore della Fida Sisontina per promuovere il dono del sangue. Sulla piazza di Turiaco, l'abete natalizio donato dall'associazione Menaus di Paularo. Al tempo di Natale si sposano perfettamente i classici della danza. Al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è diventata una tradizione offrire i balletti romantici. A dicembre quest'anno si inizia con Giselle del balletto di Mosca, diretto da Eugenia Bespalova, sulle musiche di Adam nelle coreografie di Jean Coralie. Questa sera alle 20:30 al Teatro Verdi di Gorizia invece il concerto di Irene Grandi con il Fiera di Me Tour. E a Sacile l'apertura dell'avvento con il concerto di Natale promosso dall'Associazione Gli Amici della Musica alle 21 al Teatro Ruffo. Il Castello di Gorizia da domani sarà il set per le riprese del film Alla Festa della Rivoluzione, che vede nel cast anche Riccardo Scamarcio e Valentina Romani. Per lasciare posto alla troupe, il castello sarà chiuso al pubblico da domani fino a venerdì compreso. Alla festa della rivoluzione, un film diretto da Arnaldo Catinari e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Ambientato negli anni 20, è una produzione storica in costume con la sceneggiatura scritta da Arnaldo Catinari e Silvio Muccino, liberamente ispirato all'omonimo libro di Claudia Salaris. La produzione benefica del supporto logistico e del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission Promoturismo FVG, avviata in regione lo scorso 21 ottobre, le riprese che hanno poi toccato Udine, Trieste, Palmanova e altre località in regione e si concluderanno a Gorizia. Le riprese richiederanno da mezzanotte di mercoledì 4 alle 12 di sabato 7 il divieto di sosta in piazzale Seghizzi nello slargo di Viale D'Annunzio vicino alla Porta Leopoldina e su tutti gli stalli di Largo Basaglia. Nuove scoperte sulle terme di Aquileia sono emerse durante l'ultima campagna di scavi dagli archeologi dell'Università di Udine. Un'abside monumentale di circa 30 metri di ampiezza, una decina di parti di statue di divinità e di imperatori o altri dignitari e frammenti di colonne, tra cui una colossale del cosiddetto marmo africano. Gli studiosi dell'Ateneo Friulano hanno inoltre scoperto che la costruzione del complesso è iniziata intorno al 300 d.C., cioè almeno un decennio prima di quanto finora ipotizzato. Le novità portate alla luce sono di valore straordinario sia per lo stato di conservazione delle strutture che per il significato dei reperti rinvenuti per la ricostruzione della funzione dell'edificio, sottolinea il direttore degli scavi Matteo Cadario. La missione è condotta su concessione ministeriale in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione scientifica e il supporto finanziario della Fondazione Aquileia. Le 12:46-41 secondi, uno sguardo al meteo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 11,5 gradi, Pordenone 10,5, Udine Gorizia 12 gradi, Sappada 0 gradi, Tarvisio 3,5, Tolmezzo 6, Forni di Sopra 9, Piancavallo 10 gradi, Monte Zoncolan 4,5, Monte Lussari 5 gradi, Lignano 11 e grado 12 gradi. Le previsioni dell'ARPA FVG: in giornata cielo poco nuvoloso per qualche velatura sulla costa Sofia Rabora moderata, specie a Trieste sul Carso, in calo nel corso della giornata. Sul Tarvisiano sarà possibile qualche nebbia nelle ore notturne. Stefano Bollani, uno dei più grandi interpreti del jazz in Italia, omaggerà la capitale europea della cultura con una residenza goriziana a partire dal 13 febbraio. Con lui 8 tra i più grandi nomi della scena jazz italiana e internazionale. A curare l'iniziativa Ponte a Nord-Est, progetto curato dall'Associazione Culturale Euritmica, sostenuto dall'Assessorato Regionale alla Cultura. La presentazione del progetto poco fa a Trieste, Giancarlo Velischik, direttore artistico e presidente di Euritmica. Il jazz, insomma, è una musica che sicuramente tra le varie è quella che di più può consentire davvero questo abbraccio, questo intreccio fra due culture, se vogliamo, due storie molto diverse, e per quanto ci riguarda è veramente piacevole poter annunciare questo gruppo di musicisti, questa presenza, questa leadership di Stefano Bollani, che ha accolto il nostro invito, così come gli altri che saranno membri di questa band, da Enrico Rava, fra l'altro triestino di origini, e poi Paolo Fresu e poi Roberto Gatto eccetera, saranno veramente una all-star di jazzisti. Stefano Bollani si dice entusiasta di questa progettualità nuova Gorizia. È stato, insomma, l'interlocutore primo con cui ho avuto modo di interfacciarmi, proprio mettendogli a disposizione questo scenario in cui potrà coordinare, questa penso sia la sua più grande dote, oltre a quella di straordinario e eccezionale pianista, quello di grande conoscitore della musica del mondo, di jazz, ma non solo. Oltre la residenza goriziana, subito all'inizio del programma della Capitale della Cultura, ci sarà anche un concerto a Trieste. Ci saranno dei giorni in cui a Gorizia tutta questa band di una decina di musicisti lavorerà per allestire lo spettacolo, il concerto, il programma, e si interfaccerà, ripeto, anche con la città di Gorizia. Tutto ciò accadrà a Gorizia, dopodiché appunto l'evento finale sarà al Rossetti di Trieste. Noi vorremmo alla fine ovviamente fissare in qualche modo questo progetto musicalmente e anche visivamente con delle riprese che poi saranno oggetto di pubblicazione. Gli errori dell'Udinese che l'hanno portata a subire 2 gol dal Genoa e a perdere in poche giornate posizioni prestigiose in classifica. Da prima della classe a ripetente gli errori di sempre, tutto in 14 giornate. La trasformazione dell'Udinese nasconde il vero volto della squadra di Rugnajc, che forse non era da primi posti dopo 4 giornate con 10 punti conquistati, ma nemmeno da bassa classifica dopo i 7 punti ottenuti nelle restanti 10 gare con 7 sconfitte all'attivo. L'ultima in casa con il Genoa, che prima della partita al Friuli aveva segnato 11 gol e subiti 24. Terza peggior difesa del campionato. Bianconeri che hanno pagato il grave errore di Touré in avvio, costato l'espulsione del francese, ma anche, ancora, un atteggiamento iniziale sbagliato, lo stesso di Empoli. Nella ripresa un solo tiro verso la porta di Leali. L'Udinese sembra essere caduta in laguna dopo il KO con il Venezia, che ha tolto sicurezza alla squadra. Lunedì prossimo a Monza il rientro dalla squalifica di Biol, fondamentale per la difesa e per una sfida che diventa scontro diretto per non ritornare a galleggiare nelle zone pericolose. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket a 1, la Pallacanestro Trieste incassa la terza sconfitta consecutiva a Sassari, mostrando gravi problemi difensivi. 98-86, risultato finale, con una squadra rimaneggiata assenze non spiegate tra i vari Reyes, Brown e Ross. Solo Utov, Bossi e Ruzier e uno straordinario Candussi si distinguono. Nonostante le difficoltà, Trieste resta in partita grazie alle triple, ma errori e palle perse sanciscono il crollo finale. La classifica si complica, Trieste è settima. In A2 invece, quarto successo consecutivo per l'APU Old Wild West, che domina Cremona vincendo 98-67. Caldissimo il capitano Libegovic, soprattutto dalla distanza, 26 punti per lui. 47-23 all'intervallo, l'APU gestisce bene il secondo tempo, mantenendo Cremona sempre a distanza di 20 lunghezze. I Kanji mette al sicuro la vittoria segnando la tripla del più 37. Le fasi finali sono una formalità e Udine si conferma al secondo posto assieme a Cividale. Presentata poco fa la 10ª corsa della Bora, non solo un evento podistico, un trail, ma un viaggio di scoperta del Carso, quest'anno la corsa si terrà il 5 gennaio. Rivisti i percorsi con qualche gustosa novità che ce le anticipa il presidente della società organizzatrice ASD Sentiero 1, Tommaso De Mottoni. Nuovi percorsi e non solo, anche novità gastronomiche, percorsi anche da 5 e 12 chilometri non competitivi per chi si avvicina, vuole vivere le esperienze della corsa della Bora senza lanciarsi nelle sfide più estreme, da 105, da 80, da 55 o da 32 chilometri che fanno gli atleti già appassionati. Oltre a questo, quest'anno avremo anche un piacere anche per il palato, sbarcheremo in Osmizza, quindi uniremo la corsa con anche i piaceri delle carni sul Carso, avremo un ristoro nello Smizza di Medeazza e poi altri ristori. Quest'anno ci sarà una grande attenzione al chilometro zero, alla sostenibilità. Manca poco più di un mese, siamo verso il sold out per quanto riguarda le iscrizioni, in tantissime arrivano anche dalla Croazia. Probabilmente saremo obbligati a chiudere le iscrizioni prima. Abbiamo un atleta quest'anno che viene dal Brasile e sta preparando la distanza da 105 da 6 mesi. Un parterre internazionale di persone che vengono a scoprire il nostro Carso, ad apprezzare i nostri prodotti, a vivere la nostra città. Appunto, i percorsi sono tutti all'interno della provincia di Trieste e coinvolgono tutte le aree naturalistiche. La Val Rosandra è uno dei gioielli del nostro territorio, si trova unita alle falesie di Duino col sentiero Rilke, per poi attraversare la riserva del Monte Orsario e passare sopra la riserva del Parco di Miramare. E con questo percorso del Corso della Bora chiudiamo della Corsa della Bora chiudiamo questo giornale radio, che è stato condotto e redatto da Andrei Marusci e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.